Quest'uomo ha vergogna, è umiliato, non ha il coraggio di confessare alla moglie questo lutto, questa perdita di lavoro. Questo è molto importante perché siamo sopraffatti, ci facciamo troppo condizionare da mille idee, mille cose, mille proposte. E invece tutti noi abbiamo un potenziale, veramente è difficile perché poi alla fine è estremamente semplice, quel difficile che è estremamente semplice. Dobbiamo cercare quella semplicità di riportarla.